Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 28 giugno, Italia contro luce, l'approfondimento della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana, un programma coordinato e condotto da Daniele Biacchesi che racconta le storie dei paesi e delle città italiane. 29 giugno 2009, siamo alla stazione di Viareggio. Un treno merci deraglia ed esplodono due vagoni carichi di gas. L'esplosione investe 5 abitazioni, decine di automobili, 32 morti, decine di feriti. Viareggio, un anno dopo, quali sono le ferite ancora aperte? Cosa hanno stabilito le inchieste? E soprattutto, chi ha pagato per quella tragedia? Il reportage di Raffaella Calandra. Il cartello della stazione ha ancora le lettere annerite, le case alle sue spalle, le facciate bruciate, le finestre divelte, i tetti inceneriti. Nel mezzo, davanti ai treni che sferragliano lenti, c'è un muro bianco, nuovo. Spicca davanti alla striscia nera dei palazzi di via Ponchielli. Lo avevano chiesto gli abitanti, quel muro, nel 2001. È stato costruito nell'estate del 2009, dopo che il GPL, uscito da un treno deragliato, ha avvolto in una nuvola di fiamme un intero quartiere, portando via le vite di 32 persone e stravolgendo quelle di molti altri feriti. La via era coperta di nebbia, non vedevi niente, non puzzava di gas. Poi mio padre ha chiamato quello di sopra, che è sempre marocchino, l'ha chiesto cosa sta succedendo. Lui l'ha detto sta per scoppiare la stazione del treno, perché ha visto il fuoco da lontano. Si prende il documento e si scappa. Io, cioè, volevo prendere la sorellina e lei non ha voluto, me ha detto voglio la mamma. Appena sono arrivata al giardino, che c'è vicino a casa, si è esploso tutto. Ibi Ayad ha 21 anni e il 29 giugno del 2009 ha visto sparire sotto le macerie della sua casa il padre, la madre, il fratello maggiore e la sorellina piccola. Ibi si porterà per sempre il marchio di sopravvissuta, anche ora che dopo la strage le è stata data la cittadinanza italiana. Come sopravvissuti saranno a vita Marco e Leonardo Piagentini, padre e figlio, che si sono riabbracciati dopo mesi di ospedale e dopo la morte della mamma e degli altri due fratelli. È per loro che Andrea Maccioni e tutti gli altri componenti del comitato Il Mondo Che Vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime, hanno fatto sentire la loro voce reclamando risposte, e per questo sono andati a bussare all'Agenzia della Sicurezza Ferroviaria come agli uffici della Procura di Lucca, che indaga per omicidio colposo e disastro ferroviario. Era lo stesso ingegner Chiovelli dell'ASF, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che l'incidente di Viareggio sicuramente si poteva evitare. Ne siamo certi di questa cosa noi. Queste cose non devono più succedere. Non mi ricordo più mia sorella e miei nipoti realmente, perché io l'ho visti dopo, e quell'immagine io voglio che non la provi più nessuno, quindi lottiamo per questo. Lo dicono le perizie dei tecnici, lo denunciano i dossier scientifici, ne sono convinti i magistrati di Lucca. Non tutto è stato fatto per evitare che quel treno merci Trecate-Gricignano deragliasse a Viareggio con le sue 14 cisterne cariche di GPL. Per questo, a ridosso del primo anniversario del disastro, la procura stessa ha voluto dare alla città le risposte che reclama e fa sapere che sono 18 per ora gli indagati, ma il numero crescerà ancora, come la mole di questa delicata e complessa indagine. Sotto accusa ci sono i tedeschi dell'officina che fabbricò la cisterna e quella che controllò il pezzo che si ruppe, ma nell'ultimo gruppo di indagati ci sono anche nomi di Rete Ferroviaria Italiana, responsabile delle infrastrutture di terra, e lo stesso amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, ha ammesso di aspettarsi un avviso di garanzia, ma con serenità, dice. Incrociando perizie, leggi internazionali, spulciando tra vecchie e nuove circolari, i PM si sono convinti che ci sono state negligenze nella gestione della sicurezza ferroviaria, controlli fatti con strumenti tarati male e norme inapplicate, come quella che disponeva l'eliminazione dei cosiddetti picchetti che segnano le curve e che, secondo gli inquirenti, avrebbero squarciato la cisterna uscita dai binari. Una ricostruzione contestata da RFI, che in una propria indagine ipotizza invece il cedimento di un asse all'origine del deragliamento. Reclamiamo sicurezza e per questo abbiamo presentato proposte anche a Bruxelles, si infervora Riccardo Antonini, professione ferroviere, nonché portavoce dell'assemblea 29 giugno sorta dopo il disastro. Dalle stanze del dopolavoro ferroviario guarda le case annerite di via Ponchielli. Il fatto che stiano costruendo questa barriera, 9 anni di ritardo, purtroppo, è una misura che di protezione è richiesta dagli abitanti di via Ponchielli. Che è lunga in questo momento. Parte dal cavalca ferrovia e arriva fino, diciamo, a dove è appunto ancora posizionata la cisterna da cui fuoriuscì il GPL che poi avviò l'esplosione. Il disastro di un anno fa, ma nel frattempo sono intervenute anche delle altre, mi sembra di capire, misure preventive. Ad esempio i treni merci rallentano. Lo stesso treno che trasporta 14 cisterne di GPL da Novara a Caserta abbia avuto 2 problemi in questi mesi. Uno a Grosseto il 22 dicembre, aveva preso fuoco le ruote della sala montata, e l'altro ad Alessandria poche settimane fa, dove vi erano delle anomalie alle cisterne. Da una parte è come se il 29 giugno a Viareggio non fosse successo niente, dall'altra parte c'è un intervento di questa agenzia ASFE che in qualche modo tenta di controllare quanto sta avvenendo sulla linea. Questi 2 episodi di cui mi parlava vi sono stati segnalati dall'Agenzia per la Sicurezza? Per quanto riguarda il primo a Grosseto è stato fermato il treno perché dall'Aurelia un automobilista ha visto questa ruota che era incandescente. Per quanto riguarda invece l'incidente di Alessandria è intervenuta direttamente l'ASFE, così a noi ci risulta, perché su segnalazione di alcuni esperti che avevano registrato delle anomalie in queste cisterne. Nello specifico del disastro di Viareggio, quello che almeno fino adesso è stato acclarato è che questo carro innanzitutto che proveniva dalla GATS, quindi un carro datato 74 dalla Germania dell'Est, questa revisione. Questa cisterna di cui non è ancora stata fatta la perizia irripetibile, diciamo, non si sa ancora in che condizioni era ed è. Però quando noi siamo stati a Bruxelles abbiamo sentito degli addetti ai lavori che hanno detto che il trasporto di materiale radioattivo viene fatto con cisterne altamente sicure. L'altra questione altrettanto importante, che noi abbiamo rintracciato una circolare del 90 in cui si parlava di carri cisterna scudo. La prima carrozza e l'ultima dovevano essere assolutamente vuote o trasportare sostanze non pericolose. Nella fattispecie di Viareggio avrebbe voluto dire che, essendo deragliate 5 cisterne delle 14, essendosi forata la prima, sicuramente su un picchetto di verifica a terra, ha voluto dire che poi è successo quanto è accaduto. Se fosse stata vuota non sarebbe successo niente di tutto ciò. La circolare è ancora in vigore? Ecco, noi abbiamo sottoposto questa circolare quando abbiamo avuto l'incontro recentemente il 9 aprile con l'ingegner Chiovelli. Lui ci ha detto che sarebbe stata superata, avrebbe evitato la strage di Viareggio se fosse stata applicata. Ma l'altro fatto è altrettanto importante: quando noi abbiamo avuto l'incontro a fine aprile con il procuratore generale Beniamino De Idda, lui ha ricordato ai 3 presenti che erano in riunione che quando avveniva il trasporto di queste sostanze altamente tossiche e infiammabili non solo vi erano cisterne scudo ma vi erano cisterne cuscinetto. Voleva dire, tra una cisterna e l'altra vi era inserita una che era vuota o trasportava sostanze non pericolose. De Idda lo ha ricordato dicendo: guardate che c'è anche questa circolare. Soprattutto nel trasporto di questo tipo di materiali c'è stato qualcuno che dopo la vicenda di Viareggio si sia rifiutato di portare dei treni di quel tipo? Prima dell'incidente di Viareggio erano avvenuti nell'arco di 40 giorni 4 incidenti analoghi a treni merci. Sì. Per quanto riguarda i 2 macchinisti che conducevano il treno merci del 29 giugno, uno dei 2 so che ha avuto dei problemi gravissimi dal punto di vista psicologico e non è più salito in macchina, sul locomotore. C'è silenzio ora in via Ponchielli, il silenzio dei quartieri senza vita. Fiori e candele davanti alla recinzione sono un omaggio a quanti se ne sono andati in quell'apocalisse di fiamme un anno fa. Cartelli e biglietti pieni di rabbia ricordano anche tutti coloro che si sono ritrovati senza casa e abitano altrove in attesa della ricostruzione. Una ricostruzione che ha già avuto i suoi primi stanziamenti, come stanno arrivando già 10 milioni di elargizione per i familiari e le ferrovie Ferrovie fanno sapere di aver erogato 7 milioni di indennizi per 4 deceduti ed anticipi di 700 mila euro per 7 feriti. Iniziare la ricostruzione e soprattutto dare risposte è questo che la città in questi mesi ha reclamato, ci dice il sindaco Luca Lunardini. Il governo ha stanziato insieme alla regione una cifra che era di 18 milioni e mezzo di euro più i 10 milioni che ora la legge in dirittura d'arrivo porterà ai familiari, quindi questi 28 milioni e mezzo sono adeguati per risarcire, ammesso che sia possibile da un punto di vista emotivo, le famiglie e portare a compimento la ricostruzione del quartiere andato distrutto. Manca una cifra che è 6 milioni 800 mila euro per l'esattezza per la ricostruzione della passerella che è andata distrutta, ma quello che sono le case, le strade, le infrastrutture invece queste sono coperte. Ci siamo dati come obiettivi il 2010 come il completamento della ricostruzione degli edifici e di parte delle strutture pubbliche, vedi le strade, e dovremmo essere in grado di far rispettare queste date. E nel frattempo le singole famiglie? Tutte le famiglie hanno trovato una casa presa in affitto dal comune. Subito dopo il disastro i residenti della zona dissero: avevamo da tempo chiesto un muro. Sì, questa è una vecchia richiesta che fu fatta alle Ferrovie da anni, ed è stato fatto nella zona del disastro un muro e ora arrivano anche pannelli fosnoassorbenti. Non solo, ma la stazione di Viareggio è l'unica che ha un limite di velocità abbassato a 50 all'ora. Quindi come sindaco sono ovviamente soddisfattissimo. È chiaro che dico sono soddisfatto per quello che a Viareggio abbiamo ottenuto dopo il disastro, ma non è che a Pisa o alla Spezia i cittadini sono ignifughi. Queste cose dovrebbero essere fatte laddove è possibile, ovunque. Nell'androne del comune, pannelli fotografici ricordano cosa è stata la notte del 29 giugno del 2009 a Viareggio. Una palla di fuoco sulla città, una teoria di facciate annerite, una libreria in equilibrio su pareti squarciate, libri di fumetti sopra cumuli di macerie bruciate. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Vi saluta Daniele Biacchesi. L'archivio delle puntate sul nostro sito radio24.it. Naturalmente potete scaricare le trasmissioni via podcast. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook e la nostra mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30, naturalmente su Radio 24.